Mauro, in questa 6 giorni da che orari si parte? Allora, soprattutto la sera, e quindi dalle 8:30, dalle 8 si aprono le porte dell'auditorium e poi comincia a essere vivo e vi aspettiamo dalle 8, ma poi dalle 8:30 cominciano le proiezioni. Abbiamo anche qualche performance dal vivo nel weekend, soprattutto durante il giorno, e una sessione di cortometraggi la domenica pomeriggio, ma appunto la principale parte della giornata è quella serale. Chiudiamo con i riferimenti web per la programmazione. Molto volentieri. Allora, il sito più aggiornato è www.orlandofestival.it, ma trovate tutte le informazioni anche sul sito di Lab 80, lab80.it, e sulla pagina Facebook di Orlando. Benissimo, allora ricordiamo la quinta edizione di Orlando, Festival Queer a Bergamo dal 15 al 20 maggio. Mauro Danesi che lo cura, lo ringraziamo e un abbraccio Mauro e a presto. Grazie, grazie di cuore.